Una volta la mia amica Vesna mi disse: «Sai, Simona, è un bene che tu soffra di questa malattia divina. Se così non fosse, probabilmente adesso cloneresti patate all'Istituto Josef Stefan». «Ma mi ci vedi? A clonare patate in camice bianco?» «Ma questo non è un buon inizio per un'introduzione. Se l'introduzione deve presentarti questo testo che hai tra le mani. O forse lo è». «Se non altro, adesso sai che ho questa malattia divina e che non clono patate all'Istituto Josef Stefan e in nessun altro posto. E non so ancora dove voglio arrivare». «Ciò che hai davanti è di fatto la mia autobiografia in 3 spettacoli. Autobiografia semplicemente perché è una raccolta di 3 miei testi autobiografici che costituiscono la base per 3 miei spettacoli o performance, come si chiama oggi questo tipo di teatro. Gli altri miei testi sono arrivati a un maggior numero di persone, sia sul palcoscenico dei teatri che nei libri». «Questi testi, tuttavia, sono diversi sia in termini di contenuto, ovvero sono scritti per essere interpretati da me, che per la forma, che può essere drammatica oppure no. Ho scritto e messo in scena Io la vittima nel 2007, Dammi di più nel 2009 e La seconda volta nel 2014. Si tratta di testi autobiografici in cui, come mi sono accorta solo dopo averli riletti, affronto per lo più temi legati all'autorità. A partire da esperienze personali, questi 3 testi bene o male criticano il sistema in cui viviamo attualmente». «Insomma, so che non devo intrattenerti a tutti i costi, ma come puoi vedere, sono piuttosto arrabbiata con questa nostra compagnia che tiene le redini. Chiamiamola Compagnia dei Cocchieri. E grazie a Dio esiste l'articolo 39 della Costituzione che mi permette di parlarne senza temere di incorrere in sanzioni di alcun tipo». No, non è ancora una buona introduzione, non so ancora che direzione stia prendendo». «L'ho immaginata come una conversazione con te. Non è che sia proprio la più esperta in materia. Me la cavo molto meglio a parlare con il pubblico dei teatri. Nelle mie didascalie parlo con il pubblico». «Ma questa non è una didascalia». «Questa è l'introduzione a una raccolta di 3 miei spettacoli, in cui mi piacerebbe parlare con te, nel modo in cui nei miei spettacoli parlo al pubblico. Ti immagino seduto nell'ancora flebile, ma più che benvenuto, sole di primavera, con una tazza di caffè in una mano e il libro nell'altra, a leggere». «E ora sorridi». «Forse fuori è buio e fa freddo. E tu sei seduto sul divano, sotto una calda coperta, con il libro tra le mani. Quello che stai leggendo non è un romanzo e nemmeno un testo teatrale. È... cos'è? Sono io che provo a parlare con te. È una calda coperta. È un divano. O forse il sole di primavera. Ma sarebbe meglio cominciare. Io la vittima, una solo di parole. Io la vittima si apre con la seconda didascalia più bella che sia mai riuscita a scrivere. Una breve pausa, inspira ed espira, e poi comincia. Buonasera, benvenute, benvenuti, bentornate, bentornati per chi ci ascolta già. Questa sera a Cabaret Voltaire ho deciso di invitare Martina Parri perché ci presentasse un po' il suo recente libro su Simona Semenic. Simona Semenic è una famosa drammaturga, artista, scrittrice slovena che in qualche modo si inserisce, credo, in un contesto teatrale particolare, per cui a un certo punto il teatro performativo ha smesso di essere una realtà che ti trasporta in un'altra dimensione, quindi un po' come siamo abituati magari ad andare a teatro e pensare che siamo spettatori e spettatrici di uno spettacolo che ci porti in un'altra dimensione, e invece ha introdotto l'idea di un teatro che è partecipe assieme allo spettatore e alla spettatrice, per cui direi è un teatro espressivo che coinvolge in prima persona le persone che assistono allo spettacolo, per cui entra direttamente in comunicazione con le persone che assistono, e vedremo poi nello specifico questa sera come anche Simona Semenic fa questo. Forse l'esempio che mi viene in mente più vicino a Simona Semenic è Sarah Kane, che è una drammaturga inglese che è stata tra le prime a introdurre questo tipo di teatro irruento in qualche modo, proprio per il fatto che Sarachene è molto cruda e quindi tratta anche dei temi molto forti, la guerra, la xenofobia, il femminismo, la violenza, e lo fa in un modo molto, molto forte, molto cruento, a differenza di Simona Semenic, che invece vedremo è anche un po' irriverente, un po' ironica in questo senso. Però proprio anche per i temi che vengono trattati, indubbiamente l'idea è quella di creare un impatto con chi assiste e in qualche modo coinvolgerlo o coinvolgerla all'interno della drammaturgia. E quindi Martina e Chiara Giudici questa sera hanno iniziato leggendoci l'introduzione a questo libro, e forse passerei la palla a Martina e le chiederei un po' di introdurci a questo progetto, a questo lavoro, di spiegarci un po' anche da dove è nato, come si è sviluppato e perché hai fatto questa scelta. Ciao a tutti, grazie Laura, grazie Chiara. Sì, quello che abbiamo letto era l'introduzione a questo testo, questo volume che si chiama Mi senti, che è una raccolta di tre monologhi di Simona Semenic, che è un'autrice che io ho conosciuto nel 2020-2021, quando dovevo fare la tesi di laurea e ho scelto di fare una ricerca sul teatro sloveno, che non era ancora studiato, non esisteva bibliografia in Italia, e quindi mi sono avventurata durante la pandemia, sono andata in Slovenia e ho scelto di lavorare sulla drammaturgia, che mi permetteva di studiare i testi e non vedere gli spettacoli che ai tempi non si potevano vedere. E ho scoperto questa autrice che in Slovenia è considerata la più importante artista del panorama contemporaneo. Infatti ha ricevuto uno dei premi che viene dato ogni anno a, appunto, gli artisti sia nel campo delle arti che non solo del teatro, che vengono ritenuti in più importanti. Una Marina Abramovic della Slovenia. Esatto, perché Simona Semenic non è solamente autrice, ma è anche performer, drammaturga, autrice di romanzi. E la sua scrittura è considerata una totale innovazione nel campo della drammaturgia, perché lei la concepisce come scrittura performativa, perché lei concepisce il testo stesso come una performance e adotta dei modi di scrivere molto particolari, in cui lei ha scritto tantissimi testi che non includono solamente dei monologhi, ma anche testi ibridi che includono dialoghi, eccetera. E in tutti i testi lei affronta tematiche che esplorano i tabù sociali, tutto ciò di cui di solito non si parla, quindi tematiche sconvenienti, dando voce a delle vittime, facendo critica alla società. Lo fa sempre in modo molto sarcastico e allo stesso tempo lavora con la forma del testo teatrale e fa parlare all'interno del testo quelle parti del testo che di solito non parlano, quindi le didascalie che si rivolgono in prima persona allo spettatore, rompendo quella barriera che nasconde l'autore teatrale, quindi l'autrice nel suo caso. E quindi lei, attraverso queste parti del testo che solitamente non parlano, fa parlare anche le vittime sociali, però lo fa sempre in modo molto ironico e sarcastico, e quindi diciamo che emerge un tipo di scrittura provocatoria che ci porta anche a ridere di fronte a delle tematiche che comunque solitamente vengono, o di cui non si parla, o comunque che vengono iper esposte a uno sguardo che viene iper spettacolare, che sono percepite come tabù. Sì, come tabù, ma comunque di solito in particolare in questi testi lei mostra come a volte alcune tematiche, o non si parla di alcune tematiche, oppure vengono ipervittimizzate, e lo stesso vittimismo diventa una strategia di spettacolarizzazione per ottenere denaro. Quindi lei gioca tantissimo con questa cosa, soprattutto in questo testo, nel primo dei tre testi che lei raccoglie. Questi tre testi sono inseriti all'interno di un commento che lei scrive, che è quello che abbiamo letto adesso, che è un commento in prosa che unisce i tre testi e che si distingue dal, dal testo teatrale anche a livello tipografico, perché lei nella forma del testo abolisce tutte le gerarchie, quindi non ci sono lettere maiuscole, non c'è punteggiatura, mentre in questo testo utilizza caratteri maiuscoli e punteggiatura per distinguerlo dai testi dei romanzi, come, come dice in questa lettura. E posso dirtelo, mi è difficile immaginare di scrivere qualcosa con lettere maiuscole e punteggiatura finale. Da anni ormai scrivo tutto in minuscolo, con i capoversi al posto della punteggiatura finale. Poesie, testi teatrali, email. Ma non gli SMS, no, troppo complicato. È un ente superiore ha preventivamente escluso questa possibilità. Comunque, per le esigenze di un testo che appartiene per di più alla prosa, ho deciso di scrivere come si addice a uno scrittore sloveno. O meglio, a una scrittrice donna. Mi sembra anche sensato. Ti renderà più semplice distinguere tra testi teatrali e testi di commento. I testi teatrali perciò rimangono così come sono, direi, in libera interpretazione delle regole della lingua italiana e slovena. Il testo che invece ho aggiunto ora adotta caratteri maiuscoli e punteggiatura. Forse un giorno qualcuno studierà il motivo per cui non uso le lettere maiuscole, la ragione per cui scrivo ignorando le regole. Facendo psicologia spicciola, potrei dirti che è dovuto ai miei problemi con l'autorità. In altre parole, ai problemi con chi tiene le redini. Ecco, siccome Martina mi dicevi che si tratta di un testo un po' ibrido, no? E anche forse la tua scelta di tradurre e di commentare questi specifici monologhi è stata una scelta non casuale, se ti va magari di raccontare da cosa è venuta la tua scelta e in cosa consiste il testo proprio che poi hai pubblicato tu. Sì, allora, nel momento in cui, dopo la tesi, sono stata invitata a un convegno a parlare di questa drammaturga al Festival dell'Eccellenza al Femminile del Teatro di Genova, e la direttrice del festival si è interessata a, a questa drammaturgia e abbiamo partecipato al bando triennale FUS per portare in scena dei testi di Simona. Quindi, di fronte a veramente tantissimi testi teatrali che c'erano, erano disponibili in inglese perché io li ho tradotti dall'inglese, i testi che lei aveva anche scritto in inglese, ho pensato che, visto che molti dei suoi testi sono molto complessi, includono tanti personaggi, per presentare Simona a un pubblico italiano questo testo era l'ideale, perché è una biografia, sono dei monologhi, parla di lei, quindi tutte le tematiche che lei di solito tratta, declinate in vari personaggi, in varie situazioni, sono vissute attraverso il filtro della sua esperienza, e questo mi permetteva di portare Simona a presentarsi e anche di invitarla personalmente a Genova. Lei ha fatto uno dei due spettacoli che abbiamo portato al festival. E allo stesso tempo questo testo raccoglie tre testi scritti a distanza di un tot di anni, che sono Io la vittima, Dammi di più la seconda volta. Quindi attraverso questi tre testi si vede anche l'evolvere di questa scrittura performativa che porta il testo a diventare sempre più aperto, cioè diventa una vera e propria performance. Sono stati concepiti questi testi per essere messi in scena da lei e sono episodi, hanno un continuum. Quindi appunto attraverso questi testi si emergevano le tematiche della sua drammaturgia, emergeva Simona e la sua scrittura. E allo stesso tempo anche il fatto che il testo, che in originale anche la raccolta è una raccolta, si chiama Mezlicis, che significa in sloveno mi senti, mi sembrava quasi una richiesta di venir fatto sentire, e poi oggi mi fa anche sorridere che lo stiamo facendo proprio sentire e non lo stiamo mettendo in scena attraverso il podcast, e quindi questo è il motivo per cui ho scelto questi testi.

di come lei inizia ogni parte del testo, che è divisa a seconda della malattia che lei ha. E raccontando in modo così ironico queste sue malattie, lei fa vedere come da un certo punto di vista porta all'esasperazione questo meccanismo di vittimismo in cui viene spettacolarizzato in un certo senso le tragedie della, e dall'altra parte lo sfrutta, raccontandolo in modo ironico, come strategia per in realtà raccontare veramente quello che le è successo e descrivere un sistema sanitario completamente disfunzionale che somiglia molto a quello che viviamo noi. E quindi poi quando ci si addentra appunto in tutte queste questi episodi siamo di fronte a uno scenario abbastanza tragico, ma allo stesso tempo facendo così lei esce dal vittimismo in realtà, perché lo porta all'eccesso, lo utilizza per scrivere la sua biografia, per divertire il suo pubblico, e quindi alla fine diventa un po' paradossalmente lei fa il contrario, cioè non è più vittima nel momento in cui non ne parla in un modo che poi lo fa rientrare in questo circolo vizioso in cui... Sì, cioè penso anche che la questione sia che se lo racconti in un senso vittimistico, alla fine è la tua storia e quindi le persone possono empatizzare con te ma non viverlo fino in fondo. Invece con questo tipo di drammaturgia, di scrittura, lei è in grado di effettivamente creare quasi un distacco dalla sua storia, no? Cioè di renderlo quasi oggettivo, per cui riesci più facilmente a immedesimarti e a sentire e a vivere letteralmente quello che sta raccontando. E quindi forse vi farei... Sì, che poi è anche un'altra cosa che alla fine diciamo che il tema centrale è in realtà l'epilessia. Lei è stata una delle prime persone in Slovenia a parlare in pubblico dell'epilessia, che è un tabù. E lei arriva a raccontare nello specifico le sue crisi e addirittura, però comunque non cade mai nell'autocommiserazione, come quando appunto a un certo punto, dopo che ha raccontato vari episodi di come la sua epilessia l'aveva colpita, lei non sapeva che cosa avesse, eccetera, e a scuola nessuno diceva nulla, e è arrivata, poi ovviamente questa cosa l'ha portata a essere operata, eccetera, eccetera, e anche a dei periodi in cui questa malattia ha provocato in lei delle ripercussioni anche psicologiche, dei movimenti di depressione. E c'è un episodio in particolare in cui lei è arrivata addirittura, all'inizio racconta un po' in modo ironico come lo sfruttasse, come scusa per trarne quasi profitto, un po' come fa in questo testo, che usa le sue malattie per vendere lo spettacolo. E dall'altra parte racconta anche di come lei abbia vissuto questa crisi psicologica in modo molto divertente. Se vuoi possiamo leggere questo pezzo. Voglio. Alle superiori mi andava anche bene. Al mattino sarei potuta andare a scuola con uno sguardo abbattuto. E tutti intorno a me avrebbero capito. Avrei potuto tossire appena. E tutti intorno a me si sarebbero ammutoliti, terrorizzati. E poi con voce rotta avrei potuto dire che non mi sentivo bene. Che volevo andare a casa. E sarei potuta andare alla videoteca a prendere dei film. E in pizzeria a prendere la pizza. E guardare la televisione tutto il giorno. E per di più, essere una vittima. Ma per tagliar corto, durante la mia adolescenza a un certo punto mi stufai di tutto. Scuola, soprattutto. E obesità. E decisi di farla finita. Un giorno in cui davvero non me la sentivo di alzarmi e andare a scuola. Né tantomeno di mostrare il mio volto sofferente. E poi tornare a casa a guardare i film. Detto, fatto. Avevo fatto scorta di un bel po' di pillole. Portai un bicchiere di tè in camera mia. Sbarrai la porta e iniziai a bere. Ma non avevo previsto che ci voleva più di un bicchiere di tè per tutte quelle pillole. Quindi per un po' le ingoiai senza tè.

E ancora. E ovunque. E provo. A produrre un'altra diagnosi per poter scrivere un nuovo episodio dell'autonarrazione della vittima. E vi prego. Vi imploro. Una breve pausa. Inspira. Ed espira. Lasciatemi fumare. Ecco, e così avete avuto un assaggio di uno dei primi tre monologhi. Adesso passerei al secondo. Prima però volevo fare un appunto su proprio la scelta di Simona. In questo testo, che è stato concepito per essere messo in scena da lei e che poi abbiamo rimesso in scena a Genova, lei fuma tutto il tempo. Perché, ed è seduta su questo sgabello da bar. Quindi anche il modo in cui viene messo in scena è una provocazione, perché lo sgabello è lo stesso sgabello da cui lei è caduta durante una crisi epilettica, quindi lei dice che teme tantissimo gli sgabelli da bar, e quindi è una posizione provocatoria, perché se lei cade da quello sgabello è molto pericoloso, quindi potrebbe diventare una super mega vittima. E poi anche il fumare è qualcosa che comunque nuoce al suo corpo e alla sua salute, e quindi è qualcosa che la porta a facilitare una potenziale malattia. Dall'altra parte è anche un atto politico questo del fumare, che poi mi fa sorridere perché si ricollega ai giorni d'oggi, perché nel 2007... Beppe Sala, ci stai sentendo? Quando Simona Semenic scrisse questo monologo, avevano proibito il fumo al chiuso in Slovenia, quindi lei fuma tutto il tempo al chiuso, e vabbè, oggi sappiamo che qua è proibito anche all'aperto, quindi mi verrebbe voglia di accendere una sigaretta. Ok. Chiusa la parentesi, allora vi introduco il secondo testo leggendovi il sottotitolo, che penso sia esemplificativo e vi dia già un piccolo assaggio prima di lasciare la parola a Martina, che poi vi spiegherà un po', entrerà un po' nel merito. Allora, il secondo monologo si chiama Dammi di più e il sottotesto recita così: un beta spettacolo di Simona Semenic con un prologo e un epilogo, anche tradizionalmente sottotitolato La mia vagina rientra perfettamente nella media delle vagine occidentali, con tutte le parti al loro posto, quindi mi chiedo quando è che mi hanno tagliato il clitoride? Ok, questo testo, Dammi di più, diciamo che si chiama beta, lei lo chiama beta spettacolo, perché si rifà alle versioni beta dei programmi informatici, che sono quelle versioni che non sono concluse di prova di questi programmi. Quindi anche il testo è una versione in progress, cioè che deve essere creata. E se prima e quindi è un testo che inizia a essere un po' più aperto, perché è proprio nasce come performance, nel senso che se prima ed è una critica, mentre prima si parlava del sistema sanitario, qui sotto attacco è il sistema di finanziamento della scena culturale non istituzionale, in cui Simona aveva scritto un bando, dove molte volte per finanziare i progetti gli artisti scrivono dei bandi, però poi non viene pagato il tempo di prove, viene pagato solo il tempo dello spettacolo, quindi lei si ritrova il giorno dello spettacolo a non avere il materiale dello spettacolo, e quindi fa questo spettacolo che lei chiama spettacolo da Non restituirò i soldi. Una nota per chi non lo sapesse. Gli spettacoli da Non restituirò i soldi sono quegli spettacoli che noi artisti prepariamo in fretta solo perché abbiamo ricevuto i fondi dai finanziatori e il contratto prevede che spendiamo questi fondi entro la fine dell'anno, ma per un motivo o per l'altro non riusciamo a portare a termine e mettere in scena lo spettacolo. Non ho avuto tempo. Davvero, non ho avuto tempo. So che nessuno ha tempo, ma io non ho avuto tempo per ragioni oggettive. E poi l'unico materiale che mi rimaneva e che avrei potuto esibire rapidamente, o più precisamente presentare, era Simona Semenic.

di quegli spettacoli incestuosi sui pedofili. Anzi, no, non ne avevo fin sopra i capelli solo di quegli spettacoli incestuosi sui pedofili. Ne avevo fin sopra i capelli dei gentiluomini in pelliccia che seguono inorriditi gli spettacoli incestuosi sui pedofili. Più sono inorriditi i gentiluomini in pelliccia, più si sentono meglio dopo, quando durante un esame toccano le ginocchia delle loro studentesse. O dei loro pupilli. O che si masturbano davanti alla rivista Io e il mio bambino. Immaginate, un gentiluomo in pelliccia con un cappello e una 24 ore. E nella 24 ore la rivista Io e il mio bambino e in mano il programma di sala con scritto Dammi di più. Quindi, lui tiene il programma di sala in mano e si siede in prima fila. Il sipario si apre, Polonia You appare sul palco, guarda il gentiluomo in pelliccia con la 24 ore e la rivista Io e il mio bambino dritto negli occhi. Lo guarda dritto negli occhi perché questo è uno spettacolo moderno. Bene, immagina Polona Yu sul proscenio che guarda il gentiluomo in pelliccia con la rivista Io e il mio bambino dritto negli occhi e sussurra Papà, per favore, scopami. Quindi, descrivendo tutta la genesi del progetto, l'autrice divaga in racconti personali che le permettono poi paradossalmente di toccare tutti i punti che lei aveva detto nel bando, cioè parlerò dell'incesto, parlerò di come viene spettacolarizzata questa cosa e tutti i tabù che la società stimola, come poi Simona dice alla fine dell'evento. Quindi è quello che ho fatto oggi, no? Voglio dire, trattare l'incesto, o più concretamente... l'amore proibito tra padre e figlia. Ho anche affrontato i modelli di stigmatizzazione e i tabù. Nel punto in cui la signora in pelliccia dice che non le importava di questo spettacolo teatrale contemporaneo. E poi la signorina in pelliccia risponde... che è perché l'autrice ha subito abusi. E allora la signora in pelliccia si calma, perché adesso questa indecenza aveva una causa e poteva essere sanata con 8,50 euro. Casa rifugio e simili, giusto. E considerando che il gentiluomo in pelliccia si sta facendo una sega nella toilette del teatro, cioè mentre la signora in pelliccia e la signorina in pelliccia discutono sul terribile destino di questa povera giovane creatura. Come si chiamava? Beh, considerando che nel frattempo il gentiluomo in pelliccia si sta facendo una sega sulla rivista Io e il mio bambino nella toilette del teatro, beh, penso di aver spuntato anche le patologie stimolate dalla società. Quindi anche qua... esatto, cioè praticamente... parte da questo racconto, ma invece appunto di vittimizzarsi lo usa come pretesto per fondamentalmente creare un'opera d'arte. Sì, anche perché porta agli cioè lei non aveva avuto il tempo per fare lo spettacolo e usa il tempo che aveva a disposizione e appunto invece di lamentarsi lei usa quello che ha e arriva a ribaltarlo portandolo poi al suo eccesso, perché e quindi questo era il secondo testo. Il terzo testo invece, che si intitola La seconda volta, è un testo un po' più particolare, non leggeranno stasera Chiara e Martina estratti, dovrete per forza ascoltare l'extra cabaret, però è interessante capire come si lega agli altri due. Esatto, La seconda volta è la seconda parte della di Io e la vittima, cioè si lega direttamente a Io e la vittima, è proprio il secondo episodio di una biografia che si aggiorna ogni 7 anni, quindi Io e la vittima, La seconda volta e poi ce n'è un altro che si chiama Noi le streghe. E il primo è un testo teatrale, il secondo è una vera e propria performance che inizia con l'ultima battuta di Io e la vittima, quindi Lasciatemi fumare, però viene concepito proprio per essere... cioè è qui che il testo diventa performativo, proprio il testo stesso, perché lei ha deciso di mettere in scena questo testo lasciando al pubblico il compito di leggerlo. Quindi durante lo spettacolo, se nel primo avevamo Simona Semenic che fumava la sua sigaretta e raccontava della sua biografia sul palco, il pubblico stava dove state voi oggi... nella seconda volta questi ruoli anche spaziali della drammaturgia dello spazio si ribaltano, quindi Simona Semenic è nel pubblico, il pubblico entra e si ritrova davanti al palco e sulle sedie c'è il testo e il pubblico e dei microfoni, quindi il pubblico può decidere come, quando, se leggere questo spettacolo, e Simona sta a guardarli. Questa è un po' una provocazione anche al pubblico, perché il pubblico può decidere di leggerlo in silenzio, può decidere anche dopo di dire che schifo questo spettacolo, però poi ti porta anche a chiedere: ma io che cosa ho fatto per dargli, per renderlo, per dare, cioè per cambiarlo? Cioè alla fine il compito del pubblico diventa quello di creare lo spettacolo. Addirittura nelle didascalie introduttive c'è scritto Dramatis persona, Simona Semenic, tu. E tu, che è il pubblico, che è il lettore, che è autore dello spettacolo nel momento in cui lo legge, quando entri in interazione con un testo, immagini quello che stai leggendo e stai già creando. Quindi sei complice. Tutti noi abbiamo un ruolo, una responsabilità anche all'interno della società. E quindi lei ti fa ragionare su questa cosa, nel dialogo che hai con un testo, ma in generale proprio... In qualsiasi interazione tutti hanno un ruolo e tutti hanno un potere di creare, di contribuire, quindi alla fine nessuno è vittima, tutti siamo autori, tutti siamo vittime. Tanto che fa proprio uno statement, no? Cioè, sì, sì, sì. Cioè, che consegna agli spettatori prima di mettere in scena lo spettacolo, in cui descrive proprio questa struttura della performance. Diciamo che l'unica cosa che il pubblico sa, anche quando siamo andati in scena a Genova, il pubblico arriva convinto di assistere a uno spettacolo, ma gli viene consegnato una liberatoria, in cui lei di nuovo parla direttamente al lettore, dice... caro visitatore, ce l'ho anche. Se vuoi te la leggo. Se volete ce l'ho qua. Questa. Caro visitatore, innanzitutto vorrei darti un caloroso benvenuto alla performance la seconda volta. Finalmente ci conosciamo. Ti chiedo gentilmente di sederti sul palco durante lo spettacolo. Non ti chiedo nient'altro che sederti su una sedia a tua scelta e stare lì seduto sotto i riflettori delle luci del palco. Sulla sedia ti aspetterà il testo che solo tu, se lo desideri, potrai leggere. A te la scelta, se leggere e su come leggere. E da solo, a bassa voce per te stesso oppure ad alta voce. Se tu lo vorrai, anche al microfono che ti verrà passato. Lo spettacolo dura 50 minuti, ma potrebbe prolungarsi. Quando e se tu riterrai che il tempo trascorso insieme sarà stato abbastanza, ti chiedo solo di andartene in silenzio. E così via. Poi fa firmare una prestazione di consenso. Il sogno per ogni attore, alla non fine fare nulla, non fa niente. Lasciare al pubblico il compito. Ecco, proprio parlando di attori e attrici, anche se Chiara non sei un'attrice. No, sono un'infiltrata. Esatto. Mi chiedo, com'è stato per te approcciarti a questo tipo di testo e appunto studiare insieme a Martina come performarlo? Ma è stato in realtà molto interessante. All'inizio, quando Martina ha cominciato a parlarmi di questa Simona Semenic, io non so, non le davo particolarmente corda, pensavo fossero una di quelle cose tipo, sai, ho scoperto questa nuova band di mio cugino, bellissima, non l'ascolta nessuno, non la conosce nessuno in Italia, ascoltala tu, perché lei me l'ha venduta un po' così, cioè questa autrice slovena che non conosce nessuno, ma è bravissima, fidati, bravissima. E quindi all'inizio io dicevo, ma boh, non la conosce nessuno in Italia, chissà come mai. Poi in realtà ha cominciato a leggermi ogni tanto, mentre facevamo aperitivo mi diceva, aspetta, ma ti leggo un pezzo, così. E mi leggeva le parti di, soprattutto di Io e la vittima, che mi hanno proprio colpito. Ho detto, no vabbè, ma hai ragione tu, bisogna far conoscere questa Simona Semenic a tutti, perché... Ha un'ironia che a me piace molto e ha un modo di raccontarsi che secondo me fa molto ridere, perché di fatto appunto si dichiara vittima, ma allo stesso tempo si autoassolve narrando in maniera così reale tutti degli episodi cardine della propria vita, anche il fatto che i suoi testi siano così tanto autobiografici, secondo me, è un valore aggiunto e quindi mi ha un po' coinvolto pian piano in questa scoperta progressiva di questa autrice, fino a che a un certo punto, inaspettatamente, sono diventata la sua seconda voce in questo progetto di letture, in cui non siamo veramente riuscite a dare una conformazione definibile, perché appunto questa è una sorta di presentazione di un libro, perché Martina ha tradotto i suoi testi e li ha raccolti all'interno di questo libro che si intitola Mi senti, ed è una presentazione di un libro che però è anche lettura performativa, che però è anche dialogo, che però è anche tante altre cose, e quindi l'abbiamo chiamato non è. Sì, abbiamo deciso che questa nostra cosa, che non sappiamo bene definire, non è, perché non è qualcosa di singolo, ma è di fatto un cercare di portare la voce di un'autrice che effettivamente da noi è poco conosciuta a più persone possibili, quindi facciamo un po' da megafono tutto qui. Ed è bello anche il fatto che ci siano più voci che leggano Simona Semenic, perché poi ognuno la interpreta come meglio crede, ecco. Sì, anche perché poi abbiamo fatto anche delle presentazioni con le attrici che poi parteciperanno al podcast, dove l'idea è quella di, perché secondo me i testi di Simona hanno un suono, un ritmo, vivono proprio molto nel suono, è tutto testo, cioè è lei che racconta, non c'è da mettere in scena nulla. E quindi secondo me la forma podcast, live, permette al testo di vivere, e quindi abbiamo pensato appunto di creare questi episodi in cui far sentire i testi integrali, 3 episodi per ogni testo, nella speranza che poi magari ci sia si possa arrivare a diffondere, a tradurre anche altri testi magari di Simona, che affrontano tematiche molto più ampie, vanno a toccare la guerra, varie forme di intolleranza e violenza sociale, e poi ovviamente sono anche molto più interessanti per una messa in scena dove appunto ci sono dei personaggi, delle storie. In questo caso sono proprio monologhi, lei li chiama, anche uno dei motivi per cui abbiamo pensato a non è, è perché lei stessa definisce questi testi come non sono dei testi, sono delle performance, ma non sono delle performance, sono anche dei testi. È tutto un po' ibrido, quindi è più facile scriverlo per quello che non è piuttosto che per quello che è. Va bene ragazze, se volete concludere vi direi di chiudere con le parole di Simona. Chiudiamo con le parole della Simo. Ecco, ci siamo. Si è trasformato in un vero e proprio romanzo, un romanzo autobiografico. Proprio così. Ma ora mi sto lentamente avvicinando alla fine. Ti ho sfinito? Spero, nonostante tutto, che in mia compagnia ti sia divertito almeno un po'. Che tu sia riuscito a ridere o almeno a sorridere di tanto in tanto. Per me scriverlo è stato divertente. Non ho solo riso, ma un paio di volte ho proprio riso di gusto. Per esempio nel pezzo in cui leggo la parte in cui il gentiluomo in pelliccia picchia il figlio perché ha disegnato i baffi a tutti i bambini della rivista Io e il mio bambino con un pennarello indelebile. E anche in altri punti. Mentre scrivevo ho accumulato un bel po' di debiti. Un totale di 125 euro. Con il mio amico Milan Markovic abbiamo un patto per cui ogni volta che gli rubo qualcosa gli devo 5 euro. E così per ogni persona che cito. La parte contabile della mia anima ora si chiede se non dovrei aprire un conto anche per la signora in pelliccia, che pensa che le persone come me non dovrebbero avere figli. In tutto il libro ho usato il suo pensiero 3 volte, quindi avrei dovuto versare 15 euro sul suo conto. Ma che si fotta. E per concludere, la più bella didascalia che sia mai riuscita a scrivere. Inspira. Ed espira. Grazie. grazie mille di essere venute, di aver popolato il mio podcast. E a meno che non ci siano domande da qualcuno nel pubblico che si è sentito ispirato dalla richiesta di Simona di partecipare attivamente, direi che possiamo chiudere qui e che ci vediamo alle prossime puntate. Sì, 19 febbraio, giusto? Sì. Con Ciao io la vittima.